camino, a medio frenar, y cuando digo me canso. Capito che state cagando un cazzo, no? Ma dopo poco, non 거. 넘어. Thank you.